GR Europa. La città della scienza risorga dalle sue ceneri più forte di prima ed esattamente là dove era stata costruita. Il messaggio lanciato in una sala gremita del Parlamento europeo a Bruxelles in occasione di una mobilitazione perché il polo torni a vivere al più presto, diventando centro di eccellenza euro-mediterraneo. Perché questo accada, gli eurodeputati italiani, guidati dai vicepresidenti Angelilli e Pittella, si sono impegnati per una staffetta, una vera e propria ronda ogni 3 mesi per verificare l'avanzamento dei lavori. La corruzione colpisce in misura maggiore i paesi più affetti dalla crisi e complessivamente pesa sul PIL dell'Unione. Sarà presentato per la prima volta a giugno il rapporto europeo sulla corruzione, un fenomeno che pesa in termini pesanti nell'economia del sistema. In questo momento il contrasto alla corruzione è una priorità in Europa, conferma Michele Cercone, portavoce della commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmström. Si tratta di un fenomeno che costa all'Unione Europea, secondo le ultime stime, circa 120 miliardi di euro l'anno, circa l'1% del PIL dell'intera Unione Europea. Ed è quindi un obbligo da parte della Commissione sottolineare e prendere tutte le misure necessarie per aiutare gli Stati membri a combattere la corruzione. La Commissione, da questo punto di vista, e soprattutto la commissaria Cecilia Malmström, si sono attivate già da tempo. Nel 2011 è partita la strategia europea contro la corruzione. Il rapporto europeo sulla corruzione sarà un testo che per la prima volta verrà presentato verso la fine di giugno, che ci permetterà di capire con maggiore precisione quali sono gli sforzi ancora da fare negli Stati membri e soprattutto dove indirizzare in maniera prioritaria questi sforzi. Si potrà arrivare in un futuro a uno strumento legislativo, operativo e investigativo unico che valga per tutta Europa? L'ambito legislativo in alcuni settori è già ben avanzato. Si tratta soprattutto di verificare che queste regole vengano ben applicate e vengano applicate con coerenza e con la stessa rigidità dovunque in Europa. L'intervista di Maria Luisa Pezzali. Il pressing della Commissione europea sull'Austria è rimasto l'ultimo paese che si oppone a dare il mandato all'UE per trattare con la Svizzera e gli altri stati terzi un accordo per lo scambio di informazioni sul risparmio all'estero che permetta una migliore lotta all'evasione fiscale. Lo dice il portavoce del commissario alla fiscalità Semeta, ricordando che è importante un accordo rapido anche sull'ampiezza del mandato. Un nuovo ricorso per pratiche anticoncorrenziali è stato presentato all'antitrust europeo contro Google da un gruppo di 17 operatori battezzato Fair Search, di cui fanno parte, tra gli altri, Microsoft, Oracle, Nokia, Expedia, TripAdvisor. Sotto accusa è finito questa volta il sistema operativo Android che, secondo i ricorrenti, viene utilizzato da Google come cavallo di Troia per ingannare i suoi partner, monopolizzare il mercato e controllare i dati dei consumatori. Bene, per GR Europa è tutto, l'appuntamento torna come sempre domani, poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.